come dal sesso all'amore. Ogni tabù induce ad avere per il suo posto idolatria. Come i traumi totalitaristici sono i tabù che hanno sostituito il regno dei cieli e la democrazia. E la forza dell'istituzione liberamente ispirata a Cristo sta nell'aver sedotto troppo la debolezza morale che conduce al buonismo, ancora oggi sfruttata dai politici per essere votati. Stato e chiesa sono tutt'altro che separati. E il progresso collettivo, ossessivo, compulsivo. Più l'uomo cerca efficacia, meno è sicuro. Macchine onnipotenti e uomini decadenti se cercano di proiettarlo nel futuro, altro che mio. Viviamo in un sistema maniaco-depressivo che deprime e o rende iperattivo il bambino, predisponendo la deficit dell'attenzione a causa dei ritmi dell'industria o dell'integrazione nell'industria dell'educazione. Se nessuno vuole fare figli non basta finanziare la procreazione. Chi è povero farà figli per incassare, ma poi li getterà nel bidone, in qualche istituto a sua volta finanziato in un'entropia dell'organizzazione. In ogni ricerca trovo una grave contraddizione, perché il problema è la radice, mentre viene cercata sempre soltanto in superficie una soluzione. L'uomo vuole semplificare, la fretta attuale non fa che aumentare questa necessità in maniera esponenziale. E come sempre non ho solo ragione, considerando che la mia apologia della calma a sua volta in contraddizione con la velocità di ogni mia canzone.